passeggiamo sulla sabbia, che il bambino almeno non gioca. Da dov'è che cominciamo? Dagli amori o dalla noia? Tuo marito sì, lo incontro, gran sorrisi, gran saluti, ma il discorso è già finito, non ci siamo mai piaciuti. Cambia giri, cambia amori, come un lupo senza tana, senza i tuoi capelli lunghi e la tua dolce sottana. Come va la nuova storia? Sei tranquilla, meno male, ci si stanca a coccolare una tigre dentro il cuore, però in fondo rimpiangiamo gli anni belli, gli anni duri, nel deserto degli adulti, quattro occhi, quattro muri, nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori. Che peccato che si veda così poco dal di fuori. Qualcosa si sbalanchi, una scusa per andare. Poi il giorno entra nel letto e mi dice tu sei mia. Io mi arrendo perché no, a un giorno di vigliaccheria. E la speranza poi si spoglia, giuro sotto non c'è niente, solo il sole che si perde tra le case lentamente. E sentiamoci vicine, qualche cosa abbiamo fatto. Tu quel sole di tuo figlio, io la canzone che ti canto. Forse volano già insieme contro il vento del futuro. Hanno il sangue nelle vene di due che sanno tenere duro. E ora corrono fratelli lungo questa spiaggia scura, costruiscono castelli per due donne che hanno paura.